Rivolgo una parola a te che sei stato offeso o che porti il dolore di una offesa. Non ti scrivo per dirti che non è vero, per dirti che non devi darci peso, che devi chiudere un occhio, che le cose si metteranno a posto, o casomai per incoraggiarti a non sentirti offeso, o invitandoti a non farti le tue ragioni. Nulla di tutto questo. Ti scrivo invece per dirti che devi prendere la cosa sul serio, molto sul serio. E che ti devi comportare come si deve. Forse ti è stato consigliato che devi perdonare, ma senza una convinzione è molto difficile compiere un simile gesto, anche perché la ferita dell'offesa grida tanto forte da non permetterti di ascoltare altro. Cosa devi fare? Forse ti è più facile iniziare nel modo indicato da Dio quasi 4.000 anni fa, quando qualcuno riceveva un torto, cioè occhio per occhio. Dente per dente. Ecco il comandamento. Quando uno fa una lesione al suo prossimo, si farà a lui ciò che egli ha fatto all'altro, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente. Si farà a lui la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. LV mezzanotte e 19:20. Forse questo ordine di Dio è il più conosciuto e anche citato. E spesse volte anche il più mal compreso, perciò è opportuno rifletterci sopra. Chi ha una morale trasformata dal messaggio evangelico di Cristo legge queste parole con una certa riluttanza, perché invece della misericordia proclamata da Cristo vi vede una ingiusta e inutile rivalsa, ma le cose non stanno così. L'ordine di Dio non è tanto di incoraggiare o ordinare alle persone di far ricorso alla vendetta. Così se ricevo un torto o una lesione ho l'ordine perciò il dovere e diritto di ricambiare ciò che ho ricevuto, ma piuttosto il contrario. Quando tu ricevi una offesa o un torto dal tuo prossimo, il tuo più naturale istinto è quello di renderglielo e, poiché quando agisci per rivalsa il più delle volte non ti controlli, sei portato ad andare oltre misura. E così se il tuo prossimo ti ferisce una mano, tu sei tentato a ferirgli anche il braccio. E non mi dire che non è così. Proprio perché sia tu che io siamo fatti così, Dio, con questa legge chiamata la legge del taglione, ha voluto evitare l'andare oltre a ciò che era lecito. Per questo ha ordinato occhio per occhio, dente per dente. Cioè non devi fare di più di quello che ti è stato fatto. Nulla di più. Ancora una volta, anche la legge più severa di Dio nasconde un atto d'amore. Se hai capito questo, allora io ti dico, se non sei in grado di perdonare una qualsiasi lesione, morale o fisica che sia, ricevuta dal tuo prossimo, allora applica la legge del taglione, cioè occhio per occhio. Non credi a quello che ti sto dicendo, pensi che stia scherzando, non sono mai stato così serio, credimi. Però anche tu devi prendere sul serio ciò che ti dico, o almeno ciò che Dio ha ordinato, cioè occhio per occhio, dente per dente. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che devi pretendere dal prossimo solo quello che hai ricevuto di danno e nulla di più. Mi chiederai, cosa comporta questo nella vita pratica? Molto semplice. Hai ricevuto un insulto? Bene, fatti le tue ragioni. Sei stato imbrogliato. Chiedi il giusto risarcimento. Un tuo familiare ti ha rubato 1.000 euro. Appena puoi fatti risarcire 1.000 euro. Il tuo vicino ti ha segnato la portiera? Fatti indennizzare solo il valore della portiera. Questo è quanto intende significare la legge del taglione. Nel farti le ragioni, non andare oltre a ciò che hai ricevuto di danno. La misura della punizione deve coincidere con la misura dell'ingiustizia subita. È vero che la legge di Dio in questa circostanza si riferiva a questioni fisiche e non morali, ma io ho voluto applicare ed estendere questo principio oltre i limiti per farti comprendere una cosa. Se nelle cose materiali l'ordine di Dio era quello di non oltrepassare con la rivalsa i torti subiti perché non ti limiti a quello che Dio ha detto, perché quando il tuo vicino ti fa un bollo alla macchina tu gliene vuoi fare uno più grande? Perché se ti sono stati rubati 1.000 euro tu vuoi ricevere illegalmente di molto di più? Perché se ricevi un torto, tu ne ricambi con 2, 3 o 10, Perché se qualcuno parla male di te una volta, tu dici maldicenze sul suo conto più volte a più persone? Ecco dunque il valore della legge, occhio per occhio. Se non sei in grado di non ritenere colpevole chi ti fa un torto, perché non osservi almeno la legge del taglione? Perché ci sono persone che a causa di un torto subito per tutta la vita vivono in continua inimicizia? Sei forse così anche tu? Il torto che hai subito ha creato in te una radice di amarezza tale da non permetterti più di avere un rapporto sereno e costruttivo con chi ti ha fatto una lesione morale o fisica. Non credi che sarebbe meglio ripagare della stessa moneta chi ti ha fatto il torto e poi finirla lì, rendere Panther focaccia? Non ti rendi conto che è veramente diabolico nutrire rancore e sete di vendetta quando qualcuno senza volere o anche di proposito ti ha procurato un qualsiasi genere di lesione più o meno grave? Fai la tua rivalsa, 1 Corsair.4 se vuoi, anche di proposito, ma non farti vendetta. Vomita tutta la tua bile, fai la tua sfuriata, ma poi... basta! Non serbare rancore. Levitico 19.18. Voglio farti riflettere maggiormente. Chi ferisce o colpisce, spesso lo fa una volta. Succede che scappi una parola impropria, oppure di essersi alzati con il piede sbagliato un giorno, proprio quello destinato a diventarci fatale, o di vivere un momento dove tutto vada storto e di non riuscire di conseguenza a controllare parole e gesti. Per questo, come sta scritto, tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, e normale, e umano. Purtroppo, pur trattandosi di qualcosa di perfettamente umano, chi riceve la lesione non fa caso a tutte le attenuanti che dovrebbero essere considerate nel valutare la gravità della situazione e, sta di fatto, che percepisca soltanto l'offesa. E una offesa è una offesa. È inutile che si stia lì ad attenuare il torto. E qui entra in ballo il meccanismo diabolico. Mentre chi ti ha offeso o causato la lesione quando ha colpito ha terminato, tu invece con il tuo desiderio di rivincita, con i tuoi sentimenti feriti, con lo sproporzionato desiderio di distruggere chi ti ha ferito, vivi ogni istante della tua esistenza con amarezza e sete di vendetta. Capisci la differenza? Capisci la sproporzione? Lui ha compiuto un gesto inconsulto, tu vivi del continuo con il desiderio di ritorsione. Nel dirti questo, ho presente una donna credente che mi esprimeva il suo profondo desiderio di distruggere suo marito per un torto ricevuto. Capisci? Mentre lui aveva commesso un solo torto, lei ogni istante commetteva il grave peccato dell'odio e della vendetta. Ma non era meglio per lei aver ricambiato il torto subito e stare poi in pace, anziché coltivare del continuo dell'odio? Non era meglio per lei mettere in pratica l'ordine occhio per occhio e, dopo, vivere serena e in pace con il marito? Non ti sembra? Certo. Non ho consigliato a questa travagliata donna di applicare la legge del taglione, ma se doveva commettere un errore era molto meglio rendere al marito quello che aveva ricevuto, anziché covare nel cuore tanto astio e sete di vendetta. Non ti sembra? Chi è che non è d'accordo con me? Qualsiasi persona credente non meno opterebbe per la legge del taglione. Se i credenti che non sono in grado di perdonare applicassero almeno la legge occhio per occhio e dente per dente, ci sarebbero meno liti trascinate per anni e anni. 1 Corinzi 6.1.11. È molto triste che vi siano tra i figli di Dio situazioni dolorose, inimicizie, antiche, rancori dei quali ormai non si ricorda neppure più la ragione. Se è triste per noi, quanto pensi che lo sia per Dio? Dio ti ordina, non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Levitico 19.17. Ti ho scritto con il cuore in mano. Non vorrei che tu pensassi che io incoraggio le persone a rendere pan per focaccia, ma, come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Sono profondamente convinto che il Dio delle Scritture non è legalista, anche se ci tiene che noi osserviamo le sue leggi. Ma al di là della legge scritta, vi è un'altra grande legge che supera tutte le altre, e cioè il desiderio di fare del bene al prossimo. Si tratta della legge dell'amore. Così, se nell'applicare la legge occhio per occhio io sapessi che mio fratello è edificato, non esiterei a metterla in pratica, perché lo scopo della mia vita non è tanto osservare la legge, ma usare la legge per il bene mio e del prossimo. Perciò, mi rivolgo a te che sei stato offeso o che porti il dolore di un'offesa. Non ti lasciare condizionare dai tuoi sentimenti, non chiuderti nel tuo insano dolore, ma reagisci con un pensiero positivo. Io voglio aiutare il prossimo, perché mi ha fatto del male. Chi fa del male, meno apposta o no meno, ha bisogno di essere aiutato, ancor più di quanto non ne avesse prima di sbagliare. Tu che sei l'offeso, ti trovi in una situazione di vantaggio, lo sai. Hai un'occasione che non sempre ti si presenta. Hai dei diritti e non li fai valere. Tu hai tutto il diritto di rendere occhio per occhio e nessuno potrebbe dirti qualcosa. Ma, nella tua libertà, scegli di non applicare tale legge e decidi di lasciare correre perché, come sta scritto, il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Proverbi 19:11. E ancora è una gloria per l'uomo l'astenersi dalle contese. Proverbi 23. La legge del taglione può anche essere valida, ma resta comunque molto pericolosa, perché applicandola combatti con le stesse armi del tuo nemico. Con una differenza però, in quanto, mentre il tuo nemico eventualmente avesse commesso un torto, involontariamente, tu volontariamente lo ripaghi. E voler assomigliare al nemico non è molto onorevole. Ma se a chi ti ha rubato una gallina, nonostante ti senta tentato di rubargli non solo una gallina ma tutto il pollaio, tu invece porti una torta, allora non ci sono più paragoni. Vincerai, così, il male con il bene, RM 12.21. Facendo questo, arrivi ad assomigliare niente meno che a Dio stesso, il quale, non riuscendo a farsi capire né rispettare, ha scelto in piena libertà di non rendere occhio per occhio e dente per dente, ma di morire in croce, perché tutti potessero essere liberi dalla stretta delle mandibole di un sistema odioso come quello di covare, nutrire e alimentare, la sete di una rivalsa che non ha fine. O rendi occhio per occhio, pretendi ciò che ti aspetta, oppure perdona, e non ritieni di conseguenza mai più il tuo prossimo colpevole o debitore. Il di più viene dal maligno. Febbraio 2009, Ellero.